Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Torno in Italia anche perché sono italiano, quindi non mi dispiace. Sono 13 anni che sono all'estero, in Inghilterra, con società diverse. Però c'è un motivo tecnico importantissimo per cui sono costretto a venire in Italia, perché devo fare un software di telecomunicazioni che abbia delle caratteristiche di competitività sul mercato, come costi sia di realizzazione che poi di gestione e di personalizzazione per cliente. C'è un dato tecnico, no, che è noto nel mondo delle telecomunicazioni, che l'Italia sostanzialmente, ma anche la Spagna e altri paesi, sono l'India. In questo momento sono l'India d'Europa. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi vi facciamo ascoltare l'ultima voce dei vincitori del bando Welcome Talent Business del Comune di Milano, quella di Marco Giaccalini, 44enne ingegnere, autore di una piattaforma software innovativa, anche lui tornato in Italia per avviare un'impresa. E per chi torna c'è anche chi invece vorrebbe andarsene. Il numero della settimana è 3.000. Tanti e ancora di più sono i giovani che si sono registrati lo scorso weekend alla fiera Expo Carriera e Lavoro all'Estero a Milano per orientarsi tra le offerte di impiego oltre confine. Quando si parla di fuga dei talenti sono numeri da tenere in considerazione, ma c'è pure un'Italia che prova a farli tornare, per esempio nel settore della ricerca. La frase della settimana è copyright del presidente della CNR Luigi Nicolais: ai giovani ricercatori che vanno all'estero dico di prepararsi a tornare, perché il programma Horizon 2020 è l'occasione per costruire un vero sistema paese sulla ricerca, ha detto. Beh, lo speriamo, anche perché di ritorni amari ne abbiamo visti già fin troppi. Quando si sta all'estero ci si abitua ad un sistema di vita differente, quindi quando si ritorna è un po' complicato riabituarsi a determinati schemi e determinati modi di fare. Io stavo bene fuori e sono stati 3 anni in Italia piuttosto complicati anche negli aspetti pratici. Vincenzo Spina, 37 anni, è un geologo strutturale al lavoro a Pau, nei Pirenei francesi. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura lanciamo il primo appello al Ministero del Tesoro affinché fornisca i dati sul numero dei giovani rientrati nel 2012 in Italia grazie alla legge bipartisan contro esodo. Giovani Talenti attende da 3 mesi queste cifre. Siamo contattabili a giovanitalenti@radio24.it. Sono 25.000 i giovani laureati che ogni anno lasciano l'Italia per andare all'estero, lo afferma la ricerca Dall'Italia all'Europa, dall'Europa all'Italia, Giovani in Movimento, elaborata dal Centro Studi del Forum Nazionale dei Giovani. Il danno per il PIL del paese è di 1,2 miliardi di euro l'anno. Sempre secondo lo studio, il fenomeno della fuga dei cervelli vede tra le prime mete Gran Bretagna, Germania e Belgio. La ricerca denuncia un sostanziale sbilanciamento strutturale per l'Italia, con un ampio divario tra i professionisti in uscita ad alto valore aggiunto e quelli in entrata, rappresentati da professioni con minor livello di studio. Oltre un giovane italiano su due tra quelli intervistati è disponibile ad emigrare per lavorare. E secondo uno studio del COINOR dell'Università Napoletana Federico II, su 2.000 laureati dell'Ateneo Partenopeo ben il 34% lavora all'estero. 470 hanno raggiunto una posizione apicale nella società presso cui lavorano, altri 212 insegnano presso atenei stranieri. Solo un quarto degli intervistati lavora a Napoli o in campagna. Sintetizzando, si può dire che investiamo in formazione e creiamo professionisti che portano ricchezza fuori, commenta il rettore Massimo Marrelli. Ricordiamo che la disoccupazione giovanile in Italia ha fatto registrare a dicembre quota 36,6%, in leggero calo, 606.000 gli under 25 in cerca di lavoro. Allarme rosso sull'istruzione universitaria: in 10 anni gli immatricolati sono scesi da quasi 340.000 a 280.000, con un calo di 58.000 studenti, come se in un decennio fosse scomparso un ateneo di grandi dimensioni come la Statale di Milano. Lo denuncia il Consiglio Universitario Nazionale. Sul fronte laureati restiamo 10 punti sotto la media europea. E precisa il Ministero dell'Istruzione, la fuga dall'università riguarda soprattutto gli studenti nella fascia d'età 23-40 anni. A voltare le spalle agli atenei non sono i neodiplomati, ma gli studenti meno giovani, secondo il MIUR. E secondo Data Giovani, 8 matricole su 10 scomparse si iscrivevano a lauree in ambito sociale o umanistico. Giurisprudenza e scienze della comunicazione perdono più iscritti in termini assoluti, tengono invece le lauree scientifiche. Un'indagine del gruppo San Pellegrino rivela il 22% dei laureati e il 26% degli studenti lascerebbe l'Italia per andare all'estero. Secondo il 56%, neanche la laurea da sola basta a trovare un impiego in Italia. Ad emigrare spinge soprattutto la sfiducia nelle possibilità di crescita del paese e l'idea che al di fuori dei confini italiani ci siano criteri meritocratici più certi e trasparenza negli avanzamenti di carriera. L'Italia resta anche un paese poco attrattivo quando si parla di studi. Secondo un'inchiesta del quotidiano francese Le Monde, il bel paese figura solo al penultimo posto nella classifica delle 10 nazioni dove i giovani transalpini preferirebbero immatricolarsi all'estero. Superiamo solo il Lussemburgo. Al contrario, vanno all'estero i nostri studenti. Secondo il rettore dell'Università Bocconi, Andrea Sironi, 1.300 studenti hanno fatto un'esperienza di lavoro nel 2012 fuori dall'Italia. Un anno dopo la laurea, il 17% degli studenti bocconi lavora all'estero. Alla Cattolica, nell'ultimo anno accademico, il 16% degli studenti si è trasferito a lavorare oltre confine, il Politecnico di Milano segnala un incremento del 42% negli stage all'estero. Primo ok dell'Europarlamento alla Carta elettronica europea di riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha l'obiettivo di facilitare la mobilità dei lavoratori tra paesi comunitari. E volete sapere quali competenze sono richieste in Europa, in quali settori e in quali paesi? È online Panorama UE delle competenze, sito che nasce per colmare il gap tra l'offerta di lavoro e la domanda di competenze nel continente. Un sito utile soprattutto a chi vive nella penisola, paese che, secondo l'ultimo Hays Global Skills Index, presenta un'elevata quantità di professionisti a caccia di occupazione, che competono per le poche posizioni disponibili. Info su uskillspanorama.ec.europa.eu. È stato presentato mercoledì a Milano l'incubatore d'impresa cofinanziato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Parco Tecnologico Padano per il rientro dei giovani talenti dall'estero e la nascita di nuovi progetti imprenditoriali in ambito agroalimentare in previsione di Expo 2015. C'è tempo fino al 28 febbraio per partecipare al bando della Camera di Commercio di Milano Startup Venture, che mira a sostenere le startup meneghine nel processo di crescita e consolidamento insieme all'inserimento in azienda di capitale umano qualificato. Info a mi.camcom.it. E per chi volesse provare l'esperienza di vacanza lavoro in Canada, è stato appena pubblicato un bando da 1000 posti per trascorrere fino a un anno nel paese lavorando legalmente per i primi 6 mesi. Condizione necessaria a essere under 35. Tutte le info a canadainternational.gc.ca. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a ridosso dei Pirenei. Là dove si intersecano i confini di Francia e Spagna ci aspetta un altro giovane talento italiano che ha provato a concedere un'occasione al proprio paese, ma ha dovuto fare le valigie il prima possibile. Nome? Vincenzo. Cognome? Pina. Età? 37. Città di origine? Sono nato a Torino, ma ho vissuto in Calabria per molto tempo. Studi? Scienze geologiche. Anno in cui hai lasciato l'Italia? Nel 2007. Per andare dove? In UK. Perché? Beh, per fare quello per cui avevo studiato e per realizzarmi professionalmente. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono geologo. Dove? In Francia. Tornerai? No, non credo. Ridanzo a San Milion d'Ami per introdurre la storia di Vincenzo Spina. Personalmente credo che un qualsiasi giovane capace o brillante e preparato dovrebbe far di tutto per andare via il prima possibile dall'Italia. Deve andare fuori, dove sicuramente troverà più equità, giustizia e considerazione, e dove molto facilmente si realizzerà meglio. Vincenzo, la tua disamina a giovani talenti @radio24.it è tranchant, senza appello. L'Italia, secondo te, è un malato terminale? Una nave che affonda, da cui andarsene se non si vuole morire con lei? E se sì, cosa l'ha portata in questa situazione? Beh, a mio avviso è la deriva totale del sistema paese a tutti i livelli, politici e sociali. La situazione che viviamo è una situazione che deriva da tutta una serie di non scelte fatte, da una poca trasparenza e opacità che pervade un po' qualsiasi aspetto. Andiamo con ordine, partiamo dalla tua storia. Scegli la facoltà di geologia strutturale all'Università degli Studi della Calabria. La domanda è: cosa ti ha portato a prendere questa direzione così specifica? Scelgo geologia per la passione e la voglia di conoscere in generale. Poi è una professione, quella del geologo, un po' poco conosciuta, quindi ha un suo certo fascino un po' demodé e fuori dal tempo. Ti laurei a 24 anni, tagliando il traguardo che ti eri prefissato. Lo fai con molto sacrificio, merito e, presumo, dici, qualità. I tuoi sforzi, i tuoi sacrifici hanno trovato la giusta valorizzazione in Ateneo. Che voto dai tu all'università italiana? Normalmente un voto, a mio avviso, piuttosto basso. È un sistema chiuso e del tutto impermeabile a qualsiasi tipo di controllo o di interfaccia verso l'esterno. Io penso che la ricerca e l'insegnamento, così come la ricerca di base, abbiano importanza assoluta e un'enorme ricaduta sul territorio e da un punto di vista sociale. Però l'università purtroppo è un mondo che andava riformato con una certa volontà politica molti anni fa. Adesso è totalmente irriformabile e non credo che ci sia voglia politica di rimetterci mano. Tu hai preferito, parole tue, essere pesce di mare che non un pesce grosso d'acquario, aprendoti anche agli scambi con l'estero. Hai trovato in ambito accademico in Italia la stessa sintonia e apertura verso l'esterno? In Italia, diciamo, essere brillanti non è la cosa più importante, non è la prima e più importante qualità. E questo è il dramma. Per lavorare nell'università bisogna essere in qualche modo allineati ad un sistema e accettarlo, come penso sia anche logico. Però un sistema chiuso in cui la mentalità è chiusa e gli obiettivi sono miopi e di breve durata. Però tu cerchi di restare in università con un dottorato di ricerca. Perché e in quale materia? Scelgo un dottorato di ricerca in geologia strutturale e rimango perché comunque la ricerca scientifica e l'attività scientifica credo che sia estremamente interessante e stimolante. Quanto ti è costato avere quel posto? Hai dovuto fare la fila, come avviene spesso? Diciamo che ho dovuto attendere. Quanto? Io mi sono laureato nel 2000 e ho vinto un dottorato nel 2003. Tre anni dopo? Sì. Nel frattempo però non resti bloccato. Cosa fai negli anni in cui resti, come dici tu, tra coloro che sono sospesi? Beh, continuo in qualche modo a lavorare in ambito, diciamo, accademico, con collaborazioni, cercando di cogliere quanto mi si prospettava. Sono stato anche, tra virgolette, fortunato, perché sono riuscito ad avere qualcosa. E soprattutto, penso che sia fondamentale per coloro che lo fanno, la cosa importante è valorizzare quel che si fa facendolo al meglio, perché altrimenti resta un parcheggio un po' sterile. Durante il dottorato non ho ricevuto l'assistenza scientifica necessaria per completare il mio percorso, denuncia giovanitalenti@radio24.it. Qual è, secondo te, il vero gap che c'è tra un PhD italiano e uno straniero? Quel gap che ci condanna, parole tue, a restare nell'era paleozoica della ricerca. Manca completamente la progettualità quando si danno spesso dei dottorati, perché un dottorato non deve servire ad assicurare un posto di lavoro nell'università, ma deve servire, e soprattutto lo paghiamo caro per questo, deve servire a poter mettere a frutto le specializzazioni e i sacrifici che si fanno, quindi in un certo tipo di mercato. Se non c'è mercato, a mio avviso, i dottorati vanno fermati, perché costano e non hanno alcun tipo di ricaduta. All'estero sono in qualche modo dei piccoli manager che gestiscono il loro progetto di ricerca e gestiscono un budget. In Italia non è assolutamente così, perché sono delle persone che collaborano con dei professori o con un gruppo di ricerca che hanno un limitato spazio e una limitata serenità. Questo è quel che caratterizza il dottorato italiano. Alla fine tutto questo ti porterà a lasciare la ricerca e a lasciare l'università. Allora la mia domanda è diretta: è un paese questo dell'opportunità o un paese per figli e amici di? La fortuna aiuta gli audaci, ma all'estero. Non appena prepari le valigie per andare in Canada, ti arrivano ben due offerte di lavoro dalla Gran Bretagna. Quale accetti, per fare cosa, e soprattutto quale ambiente di lavoro trovi ad accoglierti oltremanica? Accetto un'offerta fatta da parte di una società di consulenza dell'energia e trovo un ambiente del tutto differente, un ambiente dove i rapporti sono orizzontali, easy, come si dice. Zero gerarchie? Beh, la gerarchia c'è, ma del tutto approcciabile. Lì Esatto. Danno una responsabilità. Devi portarla a termine, hai il tuo tempo, sei controllato, ma in maniera del tutto serena e non gerarchica. Cos'ha, Vincenzo, un ambiente meritocratico inglese che manca un ambiente immeritocratico italiano? Il sistema italiano è un sistema che si basa sul network e sulle relazioni, e queste sono molto più importanti dei risultati, vero? Delle stesse capacità. E dei risultati? Beh, sì. Ma il bello deve ancora venire. Dopo due anni cambi società, passando a una multinazionale del settore energetico. Ti fanno tornare in Italia, a Roma. Disastro, ci scrivi. Un triennio complicato e per niente gradevole. Cosa fa scappare i cosiddetti controesodati, come lo sei stato tu, dall'Italia? Il sistema di lavoro o il sistema di vita? Spiegaci. Un po' entrambi. Quando si sta all'estero ci si abitua ad un sistema di vita differente, quindi quando si ritorna è un po' complicato riabituarsi a determinati schemi e determinati modi di fare. Io stavo bene fuori e sono stati tre anni in Italia piuttosto complicati anche negli aspetti pratici. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. A quel punto premi per tornare all'estero, ci vorrà però un triennio prima di muoversi verso la Francia. Approdi a Pau, sui Pirenei, al confine con la Spagna, dove trovi una nuova casa. Cosa fai ora e soprattutto come è stato l'impatto per la vita familiare? Faccio ancora il geologo, un trasferimento indolore, molto semplice, comunque un paese semplice. La vita familiare scorre serena, nel momento in cui anche mia moglie e la mia famiglia in generale è contenta di essersi trasferito, quindi è ok. E i tuoi colleghi rimasti in Italia invece cosa fanno? A quale sistema si sono dovuti adattare? Hanno dovuto cercare di fare ciò per cui avevano studiato, cosa che oggi in Italia mi pare di capire che non è del tutto facile. Quindi adesso non so esattamente cosa facciano tutti, ma non mi sorprende sapere che molti fanno tutt'altro. E se dopo la Francia ti proponessero un nuovo ritorno in Italia, cosa risponderesti, Vincenzo? Non credo. Nella vita non si può mai dire se poi si ha bisogno di tornare, quindi non si può essere così categorici. Se te lo dicessero adesso, beh, no. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Non va un po' tante cose, se si osservano, diciamo, i fatti degli ultimi giorni, che purtroppo non sono degli ultimi giorni, ci si accorge di un po'. Qualsiasi sia il tasto che si va a toccare, non vengono fuori cose belle nell'ambito dei vari tessuti sociali. Diciamo, dall'estero non è una bella sensazione né una bella immagine che si dà, però devo dire che comunque noi italiani siamo grosso modo più brillanti nella media e ci sappiamo adattare di più. Questo credo che sia un aspetto molto importante da tenere a frutto. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Vincenzo Spina, 37enne geologo strutturale a lavoro a Pau, nella Francia occidentale. Storia davvero paradigmatica quella di Vincenzo. Dopo una laurea in geologia e un sudatissimo dottorato di ricerca, comprende che le porte per il mondo accademico in Italia sono sbarrate, ma soprattutto che il modo di fare ricerca nella penisola è in molti casi ancora fermo al paleozoico. Quando la valigia per il Canada è pronta, Vincenzo riceve ben due offerte di lavoro dalla Gran Bretagna. Coglie al volo la prima, resta oltre manica due anni, poi col cambio di società arriva il rimpatrio forzato in Italia. Ironia della sorte. Un disastro, riassume ora Vincenzo il triennio trascorso a Roma. Alla fine, su sua pressione, ottiene nuovamente un trasferimento, stavolta in Francia, e non ho alcuna intenzione di tornare, ribadisce ora. Vincenzo invita anzi i giovani italiani capaci, brillanti e preparati a fare le valigie. Ci raggiunge ora in linea Pier Federico De Pari, segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Le chiedo subito un commento alla storia di Vincenzo. Non è semplicemente imperdonabile che un paese come l'Italia faccia dire a un suo cittadino che ha investito così tanto sulla propria formazione "non voglio più tornare" e un paese che lo incoraggia alla fuga? Non è assurdo? È assurdo. È assurdo, e il dramma di Vincenzo purtroppo è il dramma di tantissime altre persone che hanno scelto di valorizzare la propria capacità e il proprio talento al di fuori dei confini nazionali. È una grande sconfitta, penso, per il paese, è una grande sconfitta per la cultura geologica in particolare, ed è una grande sconfitta soprattutto per l'Accademia italiana. Infatti proprio Vincenzo critica duramente il nostro sistema universitario, lento e allergico agli outsider e ai ricercatori veri. Lei è stato professore a contratto. Cosa dice? Abbiamo un'università da rivoluzionare negli accessi alle carriere, nel modo di formare e selezionare i ricercatori? Il dramma dell'università attualmente è che è stato già riformato, nel senso che in questo momento stiamo pagando lo scotto di una riforma che non è stata sufficientemente attenta alle esigenze del mercato. Basti pensare ai triennalisti che di fatto non riescono a essere collocati nel mondo del lavoro, e soprattutto al fatto che in questo momento l'università, ma più in generale il mondo della ricerca universitaria, è ovviamente allo sbando, in quanto non ci sono fondi e risorse da investire nell'ambito della ricerca. E poi c'è un problema enorme di prospettive lavorative fuori dall'Ateneo. Già nel 2003 voi denunciavate il problema dei giovani geologi costretti ad accettare nella maggior parte dei casi lavori poco remunerativi e di breve durata. 10 anni dopo, in piena crisi, la situazione per un giovane geologo qual è dai feedbacks che ricevete? È ovviamente drammatica, nel senso che il giovane geologo oggi, quindi il giovane laureato in scienze geologiche, nella maggior parte dei casi acquisisce l'abilitazione all'esercizio della professione, ma non si iscrive all'ordine professionale perché le prospettive di lavoro autonomo non sono in questo momento molto ampie. Ovviamente ripiega su altri settori, uno dei quali è ovviamente quello dell'insegnamento. Il resto dei giovani geologi purtroppo spesso cambiano completamente orientamento e tipologia di lavoro, prestandosi anche ad adattarsi. Vincenzo, è una domanda per Pier Federico De Pari? Mi chiedevo cosa pensassero relativamente appunto allo sviluppo dei giovani, considerando il fatto che sempre più in Italia ci si lascia andare alla demagogia e si perdono delle opportunità per formare dei giovani in discipline che invece vengono lasciate totalmente ai giovani cinesi o indiani, salvo poi accorgersi dopo, diciamo, 10 anni che ciò che non abbiamo voluto fare ha portato alla non valorizzazione di professionalità che ormai sono perse, sono appannaggio di persone che vivono all'estero. Allora, io ovviamente rispondo da Consiglio Nazionale dei Geologi, che si sta spendendo moltissimo, soprattutto in quest'ultimo periodo, per cercare di riportare all'attenzione della classe politica l'importanza di una valorizzazione della cultura geologica in Italia. L'Italia è un paese che ha tutte le pericolosità naturali, da quella vulcanica a quella sismica a quella idrogeologica, che molto spesso affliggono il paese e determinano delle situazioni critiche, ovviamente insieme a perdite di vite umane e di beni. Non investire nel campo della geologia, quindi non valorizzare persone come lei, è una sconfitta per il paese, che però non si sta rendendo conto che questa è un'ultima occasione che avrà a disposizione per poter reinserire come materia fondamentale l'inserimento, ad esempio, delle scienze della terra all'interno dei corsi curricolari della scuola media superiore. Voglio aggiungere che in Italia ci sono 3 comuni su 4 a rischio idrogeologico, 3 su 4, sì. Perdiamo suolo alla velocità di 8 metri quadrati al secondo e abbiamo una legge urbanistica nazionale, questo lo denunciate voi, vecchia di 70 anni. Dovremmo ricoprirli d'oro e convincerli a tornare pregandoli in ginocchio, questi giovani geologi. Ma soprattutto dovremmo cercare di pregare in ginocchio i nostri interlocutori politici, ai quali il Consiglio Nazionale ha inviato un manifesto con 12 punti e nei programmi elettorali dei maggiori schieramenti politici c'è forse un rigo in uno dei programmi che riguarda gli stessi geologi. E voi come Consiglio Nazionale dei Geologi cosa fate per i giovani? Noi cerchiamo di creare le condizioni, le occasioni perché la società che ha bisogno dei geologi, perché come dice lei si perde suolo continuamente, si hanno problematiche di rischio continuamente, hanno necessità, quindi la società civile che ha bisogno dei geologi perché unici conoscitori della materia e delle prospettive della Terra. Grazie a Pier Federico De Pari, segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi. E domanda finale per Vincenzo Spina: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? È importante essere sicuri di quel che si fa, esserne certi e pianificare. Quindi il consiglio che do è di prepararsi, di fare delle valutazioni relativamente ai rischi che una partenza comporta e alle rinunce, così come anche al valore aggiunto. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un contabile Europa Human Rights Watch con responsabilità di supervisione su tutte le sedi continentali, scadenza per CV 12 febbraio, curricula financejobs@hrv.org. Un addetto stampa BEUC, Associazione Europea dei Consumatori, sede di Bruxelles, scadenza per CV 11 febbraio, curricula apply@beuc.eu. Infine, un professore di fisica sperimentale alla Radboud University di Nijmegen in Olanda, scadenza per CV 15 febbraio, info a ru.nl. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Lo sapete che dall'Italia emigrano copiosamente anche i giovani altoatesini? Anche per questo è attivo da 9 anni un network mirato a metterle in rete. Armin Ilpold, presidente di Südstern. Südstern è nato nel 2004 perché avevamo proprio, diciamo, due obiettivi. Il primo obiettivo era quello di collegare gli altoatesini all'estero, perché siamo, diciamo, una provincia abbastanza piccola, diciamo, siamo in tanti che siamo, diciamo, all'estero. E il secondo obiettivo, che è anche quello molto molto importante, è quello di collegare questi altoatesini con il nostro territorio. Quando lei dice siamo in tanti all'estero, avete dei numeri anche in base ai vostri iscritti? Sì, attualmente i nostri iscritti sono 1700 e sono in più di 65 paesi. Quanto è forte l'incidenza dei giovani professionisti all'interno di questo mondo della nuova immigrazione altoatesina? L'età media dei nostri membri è intorno ai 35 anni, addirittura, diciamo, cala anche, e vediamo, diciamo, che sono, diciamo, giovani sempre di più, diciamo, cercano questa esperienza all'estero. E dove vanno, per fare cosa? Quali lavori, quali professioni? Vanno, diciamo, fortemente nei paesi di lingua tedesca, cioè soprattutto la Germania, diciamo, perché è anche un paese forte, poi anche all'Austria e la Svizzera, e poi però sono anche in molti, per esempio in Gran Bretagna o anche poi negli Stati Uniti. E tra i nostri membri, diciamo, il ramo più forte è quello, diciamo, dell'economia, commercio, eccetera, però per esempio ci sono anche tanti medici. Prevale di più la voglia di fare un'esperienza all'estero o la ricerca di un lavoro per mancanza di opportunità? Sappiamo che l'Alto Adige è una regione abbastanza ricca. Ovviamente, secondo me, ci sono due motivi. Il primo è ovviamente di fare questa esperienza all'estero, perché i giovani hanno capito che un'esperienza all'estero per vari motivi può essere molto utile. Però un secondo motivo è sicuramente la mancanza anche di certi tipi di lavori e anche, diciamo, di una struttura economica forte in più settori. Quali sono le principali attività che organizzate anche attraverso il vostro sito? Il primo ramo di attività è quello dei nostri eventi, cioè noi abbiamo un grande evento ogni anno, e poi da circa 2 anni noi abbiamo anche nei diversi paesi o anche in certe città degli eventi locali. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.zutstern.org. Un motivo per restare o tornare. 5 milioni di euro per il rientro in Italia di giovani studiosi impegnati all'estero. Il ministro dell'istruzione Profumo ha firmato il decreto che dà il via libera per il 2013 al programma di reclutamento dei giovani ricercatori Rita Levi Montalcini. Sarà così possibile per 24 studiosi attualmente in servizio presso università ed enti di ricerca stranieri tornare a lavorare in Italia. L'iniziativa è rivolta ai dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non più di 6 anni, impegnati stabilmente all'estero da almeno 3. Tutte le info su cervelli.cineca.it. Attenzione però, per 24 cervelli potenzialmente di ritorno ce ne sono altri 23 già rientrati con lo stesso programma che continuano a non avere alcuna garanzia di futuro in Italia alla scadenza del contratto. A ottobre ce ne siamo occupati a giovani talenti. Evitiamo per favore il ridicolo di stimolare rientri che siano solo brevi parentesi prima di nuove fughe.